Spetta a me presiedere questa mattina questa ultima sessione di questo interessantissimo convegno su Linderbach. Mi consento di premettere una scusa personale per non aver potuto seguire tutti i lavori, specialmente nelle due giornate di mercoledì e ieri mattina. Ho dovuto assentarmi non per mancanza di riguardo verso i relatori, prego di scusarmi, ma avevo un impegno improcrastinabile in facoltà a Venezia. Questo è stato solo il motivo determinante della mia assenza e mi è dispiaciuto perché ho sentito degli echi favorevolissimi ai lavori di queste due giornate. Oggi questa ultima sessione è dedicata all'attività dell'Linderbach, all'attività pastorale, al suo ministero sacerdotale, e già nella prima relazione, nella prolusione del professor Strunad, è stato posto in rilievo come in difformità da quanto avveniva allora Linderbach si sia effettivamente preoccupato di quello che era il governo della parrocchia che aveva ottenuto a sud di Vienna e poi anche del governo spirituale della diocesi di Trento. Non erano atteggiamenti molto comuni in quei tempi, anche qui a Trento alcuni principi vescovi erano più principi, erano temporali che vescovi, che pastori, erano della diocesi. Oggi sentiremo appunto questo aspetto della vita e dell'attività dell'Linderbach. Ci sarà qualche piccola variazione nell'ordine delle relazioni. Incomincerà il professor Vareschi e seguirà poi la dottoressa Rando. Così diamo un po' di tempo al Monsignor Volksgruber, che aveva scritto la sua relazione per pronunciarla in lingua tedesca e sta adesso, si parla bene l'italiano, lo sta adesso un poco predisponendo le cose in modo da poter tenere la sua relazione in lingua italiana invece che in lingua tedesca, e allora gli diamo un po' più di tempo. E poi concluderà il professor Roger, che è stato l'anima, l'iniziatore, l'organizzatore di questo convegno. Il professor Roger non ho bisogno di dir niente, perché l'avete visto in attività, poi sappiamo quali sono stati i suoi studi di storia della Chiesa e di presidente dell'Istituto di Scienze Religiose di Trento. E professor Roger chiuderà anche il convegno dopo la sua relazione, che sarà l'ultima nell'ordine. Allora prego il professor Vareschi di venire e parlerà sulla liquidazione di un abate e di un vescovo, Benedetto di Trento, già vescovo eugeniano. Lo saluto caramente, anche perché sta preparando un grosso lavoro che pubblicheremo come Società di Studi Trentini di Scienze Storiche sulla dieta di Augusta della seconda metà del secolo XVI. Prego. Grazie. Una premessa per chiarire che io in verità mi discosto un po' dall'Linderbach, che è il nostro titolo, perché il mio titolo nomina un altro personaggio, Benedetto, vescovo eugeniano. E sappiamo che Eugenio IV è qualche anno prima dell'Linderbach. E peraltro il Benedetto, abate di San Lorenzo qui di Trento, ha incrociato anche il Linderbach per via di una lunga disputa sul possesso dei beni del monastero stesso, che erano stati devoluti alla prepositura del capitolo, la seconda dignità del capitolo, che era stata istituita con quei beni da Martino V, dal vescovo di Alessandro di Masovia e da Martino V negli anni 20. E Benedetto viene eletto vescovo, viene nominato vescovo in opposizione alla nomina del capitolo nel 1444. Dunque io dico subito che sia come personaggio sia come tempo io mi discosto un po' interpretando, credo, il titolo che mi è stato proposto, mi discosto un po' dal Hinderbach. Peraltro lo nominerò per quanto ci sarà, diciamo, di collisione nella disputa sulla prepositura tra Hinderbach e Benedetto. Un'altra cosa c'è da dire che su Benedetto abbiamo molte fonti per quel che riguarda questa disputa della prepositura. E questa è stata già abbastanza studiata da Simone Weber negli anni 30, poi Niccolò Rasmo negli anni 60 e da ultimo un po' da una certa signora Ceschi in una tesi di laurea all'inizio degli anni 70. Quindi non valeva la pena riprendere il tema del contrasto, della lite, della prepositura, che tra l'altro è una di quelle tantissime liti che si trascinavano senza fine in questo tempo, con deduzioni e controdeduzioni nelle più varie sedi, e ha, credo, un relativo interesse, se non per capire un po' da che parte si collocavano, ad esempio, i diversi papi che si sono succeduti molto velocemente in questi decenni. Per Benedetto, invece, come vescovo abbiamo molto poco, pochissimo. Ecco, e passo alla relazione. Benedetto, monaco del monastero benedettino di San Lorenzo fuori le mura di Trento e abate del medesimo. Potremmo già qui porci la prima domanda: fu veramente abate Benedetto? Le fonti lo definiscono effettivamente così. Noi però non possediamo un documento di elezione o una qualsiasi provvisione in questo senso, o perlomeno non mi è ancora nota finora. E ciò che più conta, molto probabilmente Benedetto fu eletto abate di San Lorenzo benedettino quando a rigore il suo monastero aveva già cessato di esistere. Al tempo di cui ci occupiamo, il monastero benedettino di San Lorenzo era stato trasferito ormai da quasi due secoli presso la chiesa di Santa Polinare nel borgo omonimo che gli apparteneva, la chiesa. E ciò da quando nel 1235 l'edificio presso la chiesa di San Lorenzo era passato ai Domenicani. La fondazione benedettina aveva però continuato a sussistere e mantenuto, anche dopo lo spostamento a Santa Polinare, il nome originario di Monastero di San Lorenzo. Nel 1425 il principe vescovo di Trento Alessandro, duca di Masovia, eresse nel capitolo della cattedrale trentina la dignità della prepositura fino a quel momento inesistente, come seconda dignità dopo il decanato, e la dotò coi beni e i diritti del monastero di San Lorenzo, che venne soppresso e incamerato. L'anno successivo Papa Martino V sanzionò l'operazione con la sua autorità. Primo preposito fu il polacco Stanislao Sopnowski, cancelliere vescovile e un conterraneo del vescovo Masovia. Abbiamo sentito ieri anche di questo stile di questi vescovi, anche del Liechtenstein e di altri, di portare con sé tutta una schiera di ufficiali, la qualcosa non era affatto gradita al clero e all'ambiente trentino. La lotta per preservare l'abbazia ai monaci iniziò molto probabilmente già al tempo della decisione del vescovo Alessandro e venne subito inoltrata istanza contraria anche in curia romana. Ma la posizione del vescovo era assai forte e viceversa il monastero mancava di personalità capaci di impegnare con lui un confronto efficace. Nel gennaio del 1433 viene nominato per la prima volta in questa vicenda e precisamente con il titolo di abate di San Lorenzo, ma in realtà era già attivo ai tempi di Martino V, cioè prima del 31, il monaco Benedetto, che insieme a quattro suoi confratelli è colpito dalla scomunica papale per non aver corrisposto al preposito Sopnowski una certa somma di denaro proveniente dalle rendite dell'ex monastero. Alla scomunica Benedetto rispondeva con un atto di aperta ribellione e ricorreva a sua volta a Roma. Nel febbraio del 1434 otteneva anche una decisione favorevole alla propria causa. In altre parole, il Papa Eugenio IV rivide la posizione della curia romana dai tempi di Martino V e si collocò dalla parte di Benedetto. Il motivo di questa svolta rispetto ai tempi di Martino V è da ricercare nel contesto generale dei rapporti tra il Papa Eugenio IV e i vescovi della Germania. Si era aperto infatti alla fine del 431 il Concilio di Basilea, che il Papa aveva dovuto subire controvoglia, e i rapporti tra le due autorità erano stati subito pessimi, come è noto. Il vescovo Alessandro di Trento, insieme al suo capitolo, era tra i fautori della linea conciliarista intransigente e intervenne personalmente per lunghi periodi alle sessioni basileesi. E dunque nel 1434 abbiamo due prese di posizioni opposte nella contesa per la prepositura: il concilio a favore del vescovo Alessandro e della soppressione del monastero e erezione della prepositura, il Papa Eugenio IV invece a favore di Benedetto, anche se non cassa la prepositura stessa. Anche i rapporti tra il vescovo Alessandro e la città di Trento, cui Benedetto apparteneva, era cittadino trentino, e attraversavano in quegli anni una fase critica. Una tale situazione di brutti rapporti tra città e vescovo, del resto, non era una novità. La cittadinanza della Trento tardo medievale condivideva con altre realtà analoghe italiane ed europee l'aspirazione ad un'autonomia dal potere principesco vescovile. Condivideva l'aspirazione, ma non l'effettiva indipendenza, un fatto che non ha nemmeno confronto con le realtà italiane. Di questa situazione erano poi sempre bene attenti. Questa latente e alle volte anche aperta tensione tra città e vescovo, erano sempre attenti a trarre vantaggio i conti del Tirolo ai fini del loro disegno egemonico sul principato vescovile. Era di poche decine d'anni prima la violenta sollevazione del Belenzani, nella quale il duca tirolese aveva giocato, come sappiamo, un ruolo decisivo e spregiudicato. Allo sfortunato governo del vescovo Giorgio Liechtenstein era seguita, dopo alcuni anni di sede vacante nel 1423, l'elezione di Alessandro di Masovia, una soluzione influenzata dal duca d'Austria Federico IV. Tuttavia l'intesa tra la cittadinanza trentina e il nuovo vescovo polacco non fu certo maggiore. Avvenne così, ad esempio, che nel 1435, in occasione di un'assenza del principe vescovo da Trento, che presenziava i lavori del concilio di Basilea, scoppiò contro di lui e contro il suo governo una rivolta da parte degli abitanti di Trento e di altre località del principato. In generale veniva rimproverato al vescovo di essere causa della rovina del principato, accusa questa in verità ingenerosa, perché non si può dire che il Masovia sia stata una rovina, anzi ha consolidato, mi pare, tutto sommato il principato vescovile. È stato di quelli che più sono stati in grado di opporsi ai tentativi invece dei duchi tirolesi di estendere la loro autorità a sud. E tra i numerosi cittadini trentini che lamentavano perdite e danni dalle presunte o vere manovre del Masovia, viene nominato anche lo speziale Melchiorre dell'Oglio, che appare anzi come uno degli animatori della protesta contro il vescovo e che poi lungo tutta la lite della prepositura compare più volte davanti ai notai come testimone a favore di Benedetto. Tuttavia fu proprio alla morte di Alessandro di Masovia nel giugno del 1444 che si aprì la fase più inaspettata della vicenda del monaco. Il vescovo morì a Vienna, alla residenza del giovane imperatore Federico III, a quel tempo ancora re di Germania, che era nipote del Masovia. La mamma di Federico III era sorella del vescovo trentino, che favorì vantaggi e un accresciuto controllo sul principato. Nel 1439 era cambiata la guardia anche al vertice del ducato tirolese, dove era subentrato Sigismondo, per il quale però, essendo egli ancora dodicenne, venne assunta la tutela e la reggenza dal suo cugino imperatore. Negli anni successivi, di fronte alla renitenza dell'imperatore a restituire al duca Sigismondo il potere nel Tirolo, insorse a difesa della patria la Landschaft, cioè il complesso degli Stände, che appunto in quei decenni stavano sviluppando la loro compartecipazione alla gestione del potere. Tutto questo ebbe pesanti contraccolpi anche in ambito trentino. Il vescovo Masovia stava infatti dalla parte dell'imperatore e venne di conseguenza a trovarsi contro i tirolesi che difendevano l'autonomia della loro contea e rivendicavano la restituzione nei suoi diritti del giovane principe Sigismondo. Inoltre un'altra circostanza preoccupava da sud i ceti tirolesi, e cioè l'insediamento della potenza veneziana nei territori meridionali del principato vescovile e il timore che dopo i recentissimi fatti di Mori e di Riva nel 1439-40, inglobati appunto nei territori veneziani, la medesima sorte potesse toccare anche ad altri territori più settentrionali, ad esempio alla stessa città di Trento. Infine, nella recente guerra veneto-viscontea, il Masovia aveva parteggiato per i milanesi e gli venne attribuita l'intenzione di offrire a loro, ai Visconti, l'avvocazia feudale sul principato vescovile. Ce n'era abbastanza per decidere di prevenire con ogni mezzo quegli sviluppi e la conseguenza fu che nei primi mesi del 1444 i tirolesi intrapresero un'azione militare contro il principato e posero l'assedio alla città di Trento, costringendola molto presto alla resa. Tra l'altro patì danni anche il convento di San Lorenzo, per cui troviamo Benedetto alloggiato in varie case di Trento in questi anni, e, ad esempio presso i Belenzani e i Roccabruna, che sono delle famiglie borghesi o patrizie trentine. È interessante questo raccordo con loro da parte di Benedetto. Intanto, probabilmente subito dopo la morte di Alessandro di Masovia, avvenuta il 2 giugno del 44, il capitolo elesse vescovo il canonico di Trento e Bressanone, Teobaldo dei Conti Wolkenstein-Trostburg. Il capitolo non intendeva evidentemente lasciarsi sfuggire l'occasione per riacquistare indipendenza dall'imperatore Federico III, al quale tra l'altro il Masovia negli ultimi due anni, quando era risieduto alla corte a Vienna e è sepolto anche lì, aveva ceduto l'amministrazione delle temporalità del vescovado. Inoltre il padre dell'eletto del Wolkenstein, Michael, e uno zio, il poeta Oswald von Wolkenstein, erano stati tra i membri più attivi della Landschaft tirolese nella lega stretta per riottenere l'integrità dei diritti dell'erede legittimo Sigismondo. Ciò non di meno, l'elezione del Wolkenstein non fu semplicemente il risultato della volontà dei tirolesi, pur recenti vincitori a Trento, tant'è vero che in una circostanza gli stessi affermarono che Teobaldo non era stato eletto dal capitolo in accordo con loro, e che pertanto l'eletto non poteva governare la diocesi finché non avesse ottenuto il pieno appoggio del duca. L'elezione del Wolkenstein avvenne dunque ed era significativa di un momento di transizione, nel quale si era allentato il controllo della Casa d'Austria sul Principato Trentino, o perlomeno il capitolo cercava di scuoterlo da sé, e insieme ancora non si era assestato il regime di Innsbruck. Ancora, l'elezione del Wolkenstein può essere riguardata come l'espressione di una volontà da parte del capitolo di mediazione e di riconciliazione con la Landschaft tirolese dopo le recenti fasi di tensione e di guerra. Uscito ormai di scena, il maggior responsabile di quella tensione, vale a dire il Masovia. Teobaldo Wolkenstein venne prontamente confermato dal Concilio di Basilea, con il quale i rapporti del vescovo tridentino e del suo capitolo si erano fatti più intensi dal tempo dello spostamento a Ferrara e poi a Firenze del sinodo papale, cioè dal tempo dello scisma vero e proprio. Il Papa Eugenio IV però non accettò l'elezione fatta dal capitolo di Trento. Non solo probabilmente perché preferisse un italiano a un tedesco sulla sede di Trento, e questo può anche avere un senso, se teniamo conto che appunto c'era la disputa sulla parte tra l'impero e la curia sull'appartenenza di Trento alla nazione alemannica oppure all'Italia, no? E quindi un diverso grado di controllo del Papa e del Papato sulla diocesi e sulle elezioni dei vescovi in Trento. Dunque, non solo probabilmente perché preferisse un italiano a un tedesco sulla sede di Trento, ma anche e ancora di più perché l'elezione e la conferma di Wolkenstein erano avvenute sotto il segno dell'anticoncilio di Basilea, che evidentemente Eugenio IV non poteva semplicemente accettare. Pertanto il 12 ottobre 1444 Eugenio IV fece una propria nomina nella persona dell'abate Benedetto da Trento. Il fatto è quanto mai illustrativo della contesa circa le nomine ai grandi benefici ecclesiastici che Papa e Concilio avevano ingaggiato e che rischiava di riprodurre il caos dei decenni precedenti, del precedente grande scisma. Con una bolla dello stesso giorno, il Papa informava il Duca Sigismondo della sua provvisione e raccomandava Benedetto alla protezione del Duca. Accenna anche alle bolle in questa lettera al Duca Sigismondo. Io fino adesso non le ho potuto rintracciare, la bolla stessa di nomina. Comunque in questa lettera a Sigismondo il Papa accenna espressamente anche alla bolla papale di nomina. Benedetto assunse anche impegni in ordine al pagamento della tassa in curia, anche se da quanto appare dalle fonti quasi sicuramente non li assolse per intero. Tuttavia un documento del luglio 47, quando Benedetto di per sé come vescovo era già uscito di scena, accenna alle spese da lui sostenute in curia per la conferma, per le quali aveva fatto da fide iussore un certo Jacopo di Venezia. Come mai questa nomina di Eugenio IV? Il fatto è che nel corso delle precedenti fasi della lite circa la prepositura alla curia papale, si aveva avuto modo di conoscere Benedetto, ed Eugenio IV aveva già concesso, come abbiamo visto, delle attestazioni in suo favore. Soprattutto deve aver fatto buona impressione la valorosa resistenza del monaco contro i provvedimenti del Masovia, che certamente non godeva le simpatie di Eugenio IV. Si tenga presente che sul finire del 1439 il vescovo di Trento era stato d'accordo con la elezione dell'antipapa Felice V, ricevendone in cambio la nomina a cardinale e patriarca di Aquileia. Di nuovo, quest'ultimo, un particolare che deve aver fatto una pessima impressione sul veneziano Papa Condulmer, Eugenio IV. bisogna ricordare anche che nella sua opposizione al vescovo a Benedetto non erano mancati appoggi da parte della comunità cittadina alla quale apparteneva, appoggi più volte ricordati anche nelle bolle papali circa la prepositura. E questo può aver forse indotto il Papa Eugenio a sperare che il suo nominato sarebbe riuscito ad affermarsi. In diocesi si ebbe dunque lo scisma, che ben si inquadra in quello più generale. Più precisamente, il Pincio, questo autore del 1500, e il Bonelli, dietro di lui nel 1700, e dietro di loro altri, non però l'Alberti, affermano che Benedetto avrebbe avuto dal Papa l'incarico del governo della parte della diocesi soggetta al dominio veneziano, cioè in sostanza la Vallagarina e Riva, mentre Teobaldo avrebbe cercato di affermare il proprio potere sul resto del principato. La lettera di presentazione di Eugenio IV al duca Sigismondo non fa parola di alcunché di simile, ed è ben difficile immaginare una disposizione pontificia di questo tenore, che avrebbe ufficializzato lo scisma. Di fatto però l'esercizio scismatico delle potestà vescovili in diocesi da parte dei due eletti si poteva suddividere, nel caso, soltanto nella maniera descritta. Una tale soluzione, cioè di un vescovo per i domini meridionali del Principato, doveva star bene in ogni caso alla Repubblica di Venezia, che tendeva ad esercitare un attento e tenace influsso sulle nomine e i benefici maggiori situati nei domini di terraferma, e che essa via via si annetteva. Il fatto è dimostrato per parecchie nomine vescovili nel dominio veneto e si riscontra chiaramente anche per le nomine dei pievani del Trentino meridionale nel secolo XV. Eugenio IV poi era veneziano e seppure non si dimostrò per lo più molto disponibile alle pretese in materia ecclesiastiche della sua patria, tuttavia il caso tridentino era peculiare e nel residuo conflitto con il Concilio di Basilea, come anche nei confronti con le potenze tirolese e austriaca, non doveva apparirgli intempestivo un reciproco appoggio con il dominio veneto, questo perlomeno finché durava di fatto lo scisma diocesano. Questo calcolo poteva anche riuscire a dare qualche frutto se teniamo conto del momento di debolezza che attraversava il governo ducale tirolese, come è stato accennato. Ed ora ci chiediamo, ci fu un effettivo governo della diocesi o di parte di essa da parte dei due eletti? Poco o nulla, e questo tanto per il governo spirituale che per quello temporale. Per quel che riguarda Benedetto, anche il vescovo eugeniano doveva fare i conti, come tutti i suoi predecessori da due secoli a questa parte, con il suo avvocato tirolese, il duca. Così il 13 giugno 1445 Eugenio IV autorizzò Benedetto, vescovo di Trento, così è nominato, a consegnare per 5 anni al duca Sigismondo in custodia il castello del Buon Consiglio e altre 3 rocche, affinché, si sosteneva, il duca potesse provvedere alla sicurezza della chiesa tridentina. È una chiara concessione anche da parte di Eugenio IV ai rapporti di forza esistenti nel Principato, se non a Sigismondo stesso, ma alla reggenza, eccetera, al governo. Di governo temporale di Benedetto nel Principato manca qualsiasi traccia nel codice ecclesiano delle investiture, come anche in altre raccolte. In più di un documento, ad esempio, si nomina senza alcun accenno al vescovo soltanto il vicario in temporalibus per la città di Trento, Melchiorre de Faccini. Per quanto riguarda il governo spirituale della diocesi da parte di Benedetto, abbiamo poco di più. E comunque, come affermano Pincio e Bonelli, nella parte soggetta al dominio veneto. Ma ben poca cosa anche qui. Invano, ad esempio, si cerca un intervento di Benedetto nella travagliata successione alla Pieve di Mori negli anni 1441 fino al 45. Il 12 gennaio del 1946 invece Benedetto è testimoniato presente ad una riunione a Rovereto con il Pievano di Lizzana, cui sottostava in quel tempo la comunità di Rovereto, con il Podestà, una riunione tra Pievano, Podestà e Capitano della Vallagarina e con altri rappresentanti della comunità in cui si discutevano i preliminari della costruzione della chiesa di San Marco. Sempre a riguardo di un eventuale esercizio di potestà di governo diocesano da parte di Benedetto, significativo a mio parere è il fatto che sia ancora il vicario generale in spiritualibus del Masovia, il milanese Francesco De Bossi, che era anche decano del capitolo, a svolgere questa funzione anche durante il biennio dello scisma diocesano. Il 4 maggio del 1946, ad esempio, la presentazione da parte del duca Sigismondo del nuovo Pievano di Bolzano, che era diocesi di Trento, fino molto vicino a noi, è indirizzata al De Bossi, e il successivo 1 giugno era ancora il De Bossi a investire il nominato. Dunque ben poco di Benedetto. O meglio, di reale governo vescovile del monaco benedettino non si può parlare. Altrettanto insignificante appare del resto la presenza del Wolkenstein nel biennio dello scisma, pur avendo egli dalla sua parte il capitolo con il decano e il vicario generale De Bossi. La sollecita conferma basilese non gli poté certamente giovare molto, perché il concilio stesso era ormai molto indebolito. Nessuna traccia di investitura feudale da parte dell'imperatore al Wolkenstein e nessun atto di, cioè l'attribuzione delle regalie, e nessun atto di governo, né nel temporale né nello spirituale. Lo stesso duca Sigismondo o il suo governo inoltrò le presentazioni a benefici ecclesiastici spettantigli al vescovo di Bressanone, spettanti al duca per gius patronato, non a Teobaldo, ma al vicario De Bossi, ancora una volta. La sua posizione di Teobaldo si chiarì definitivamente quando l'8 giugno 1446, davanti a un notaio e sotto giuramento, egli nominò suoi procuratori due ecclesiastici per notificare al Concilio di Basilea la sua rinuncia alla sede trentina. Lo strumento della procura faceva risalire la rinuncia di Teobaldo, cito in italiano, a certe cause, a certis causis, cause precise e buoni rispetti per la utilità e lo stato tranquillo dell'illustrissimo principe duca Sigismondo e anche per il bene di tutta la patria. Essa dunque sta sotto il segno della volontà del rivitalizzato governo di Innsbruck di controllare nuovamente da vicino il principato vescovile, controllo che doveva conoscere appunto durante il periodo del successore Giorgio Hack un'ulteriore scalata. Quanto alla posizione di Benedetto, a 2 anni di distanza dalla sua nomina, essa era in diocesi ancora meno salda. Al monaco venivano meno ormai anche quegli appoggi esterni ai quali essenzialmente doveva la sua sorprendente promozione. Nominato a suo tempo da Eugenio IV in concorrenza col Concilio di Basilea, era fatale che il progressivo esaurirsi di quel concilio e la fine del forte riflesso dello stesso in diocesi di Trento, determinatasi con la morte del Masovia, agisse anche su Eugenio IV nel senso di lasciar cadere il suo uomo per cercare un modo meno dirompente e oltretutto più praticabile di salvaguardare la posizione del papato romano nella diocesi di Trento. Oltre a ciò, nella primavera del 1946 era tornato a Innsbruck ed era stato insediato nei suoi poteri il giovane duca Sigismondo, che era deciso a esercitare il suo ruolo di advocatus della Chiesa Tridentina, così come i suoi predecessori li avevano sempre compreso quel ruolo. Se poi la nomina di Benedetto aveva in qualche modo, anche soltanto di fatto, rappresentato una concessione agli interessi veneziani in quelli che tra poco sarebbero stati i Welsche Confinen dello Stato tirolese, anche a questo fatto, da parte tirolese, sempre bisognava evidentemente ovviare, con prudenza, ma insieme con determinazione. Infine, oltre alla recuperata autorità del governo tirolese, deve essere stata determinante, come è stato accennato, la complessiva evoluzione dei rapporti di forza tra Papa e Concilio e la posizione assunta in proposito dall'imperatore Federico III. Ormai il Concilio non si riuniva praticamente più e la posizione di Eugenio IV complessivamente si rafforzava. La nuova forza del Papa consisteva nell'ormai quasi generale riconoscimento della sua posizione da parte dei regnanti della cristianità. Federico III non era mai stato antipapale, ma ora meno che mai filo conciliare. Del resto sapeva farsi ricompensare adeguatamente i suoi progressivi spostamenti a favore del Papa. Nel 1446 o 45, in particolare, l'imperatore ottenne un privilegio nel quale Eugenio IV gli concedeva il diritto di nomina dei vescovi in alcune diocesi dei domini asburgici, tra cui anche Trento e Bressanone, anche se la concessione non diventò mai operativa, perlomeno a Trento, e venne superata dal concordato di Vienna di 2 anni dopo. Anche l'elezione di Giorgio Hack del 46, ad esempio, è riconducibile non all'influenza di Federico, bensì al del duca Sigismondo. Ciò che più conta, però, è che ormai non esisteva più tra il Papa Eugenio IV e gli Asburgo, i duchi d'Austria, lo spazio per un Benedetto. E sul versante opposto neppure il Concilio di Basilea poteva più giocare alcun ruolo in diocesi, anche se il Concilio stesso si affrettò a confermare Giorgio Hack nel 46 o addirittura ne vantava la nomina. Seppure con riluttanza e soltanto dopo del Wolkenstein, forse nel settembre del 46, forse il 21 settembre del 46, anche Benedetto rinunciava al vescovato. Sloggiato dalla cattedra vescovile, se mai l'aveva occupata, l'accorto abate non si lasciò certo liquidare senza garantirsi una posizione, e precisamente ancora una volta attraverso il controllo dei beni del monastero di San Lorenzo. In altre parole, la lite della prepositura continuava. La ricostruzione di questo quarantennale contrasto, come ho detto, non è lo scopo di questo studio. Basti qui accennare al coinvolgimento di Giovanni Hinderbach. Anch'egli dovette contendere con Benedetto da quando il 5 ottobre 1455 Papa Callisto III gli conferì al Hinderbach la prepositura di Trento. Già l'anno seguente il contrasto appare in pieno corso e non proprio senza qualche rischio per la posizione dell'illustre preposito, che si vide recapitare una citazione dal giudice delegato del Papa, il cardinale Ludovisi, anche se il Papa, Callisto III, rettificò prontamente il tiro dei giudici romani e confermò sia l'elezione della prepositura a suo tempo fatta da Martino V, sia la recente attribuzione della stessa allo Hinderbach. A fianco dell'abate troviamo tuttavia ancora Venezia, che nell'aprile del 1458, dietro istanza di Benedetto, sottopose a sequestro i frutti dell'abbazia di San Lorenzo che si riscuotevano nella zona di Riva, e si disse la Repubblica disposta a liberarli a favore del Hinderbach a condizione che questi consentisse a una trattenuta sugli stessi a favore della Serenissima. Benedetto dunque sapeva sfruttare bene a proprio favore anche gli interessi di terzi, e Venezia altrettanto. Nel 1465, su istanza del preposito Hinderbach, era l'anno in cui poi veniva nominato vescovo, l'abate era nuovamente minacciato di pene canoniche qualora non avesse inteso recedere dalle pretese sui beni della prepositura e restituire quelli asportati. Ciò nonostante l'anno seguente Benedetto procedeva ad investiture di beni dell'abbazia. A quest'ultimo termine Lo Hinderbach era già vescovo di Trento da un anno e dunque neanche più preposito, e aveva già ottenuto l'ennesimo monito papale contro l'abate, evidentemente invano. Tuttavia abbiamo sentito ieri delle difficoltà dei primi anni dello Hinderbach di assumere veramente il controllo della diocesi, sì, almeno nel temporale. Benedetto morì forse nell'anno 1466 o 67. Con la sua morte andava a chiudersi anche la contesa della prepositura, che ormai rimaneva incontestabilmente eretta e dotata con i beni e i diritti di San Lorenzo. Qualche problema continuò a sussistere riguardo al titolare del diritto di collazione. La bolla di erezione di Martino V del 1426 attribuiva tale competenza al vescovo della nomina del preposito. Dopo la morte del Sobnowski, il primo preposito, e la nomina dello Hinderbach venne fatta però da Papa Callisto III e confermata da papi successivi, e quella successiva a favore del canonico Gaspare da Teramo nel 1466, quando lo Hinderbach aveva lasciato la prepositura, venne fatta ugualmente da Papa Paolo II. Soltanto dopo un triennio, tuttavia, dopo un triennio di contrasti, il vescovo Hinderbach e il capitolo ammettevano il provveduto papale al possesso della dignità. Addirittura, secondo un documento riportato pur in copia tardiva, ma come ho controllato meglio ieri, sicuramente autentico, non c'è da dubitarvi, è riportato nella miscellanea Alberti, il Papa Paolo II nel 1469, anche per interposizione dell'imperatore Federico III, avrebbe trasferito in perpetuo ai conti del Tirolo il diritto di presentazione per la prepositura trentina. Infatti, controllando nel Bonelli, per, diciamo, pur con i limiti di quella lista, ma riporta la lista dei prepositi, e quasi tutti quanti sono consiliarius, archiducis, familiaris, anche più di uno, e tutte queste, diciamo, credenziali, ad esempio, non si ritrovano per i decani. Dunque ci deve essere stata effettivamente questa attribuzione del diritto di collazione della prepositura al duca, al conte tirolese. E di questo ne è segno anche le lamentazioni che l'Alberti nei suoi annali, lui che era stato per lungo tempo canonico di Trento nel Settecento, esprime come qualcosa, come una decisione che avrebbe ulteriormente sminuito il potere dei vescovi e consegnato in mano ai duchi. E cioè a dire, tra l'abate e i vescovi la spuntarono i duchi d'Austria e conti del Tirolo, in consonanza con il crescente territorialismo ecclesiastico dei principi e con le concessioni che adesso era costretto a fare il papato tardomedievale. Muovendosi con abilità e spregiudicatezza tra l'una e l'altra sponda, Benedetto cercò di costruire la sua avventura di abate e di vescovo di Trento. Grazie. Ringraziamo il professor Vareschi. Quello scrupolo che aveva iniziale di uscire dal tema mi pare che proprio non avesse motivo di uscire, perché ci ha condotto piano piano esattamente fino al 1465, mostrandoci quella che era la situazione di Trento, della prepositura e del Principato prima, vero, dell'entrata dell'Hinderbach. Grazie nuovamente della sua relazione.